Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica! Che domenica impegnativa di... Carica di cose interessantissime. Adesso c'è... Ma cosa mi fai, l'eco? Oddio, che noia, già di prima mattina. Che poi non è prima mattina qui, oramai è mezzogiorno. Che noia, come sempre. Abbiamo fatto anche la nostra bella figura quando andiamo in giro per negozi, che facciamo delle gag naturali e spontanee, Alessandra Raimondo. È la gente che ride. Che ride, esatto. Vabbè, facciamo un po' di felicità allora, nel mondo. Perché mi hai abbassato il volume della mia cuffia? No, scusami, è questa qua. Ok, è vero. Non sento più niente. Dai, che abbiamo cose importantissime da dire oggi. Ma nel frattempo ci avete sentito parlare nelle settimane scorse di questa dichiarazione di fedeltà al cane, no? È un po' di tempo che va avanti questa cosa qua. Tutto è nato da questo contratto che un papà avrebbe fatto scrivere ai propri figli in merito all'adozione del cane. Si avvicina a Natale, noi ci eravamo proposte di fare qualcosa di serio per il Natale, perché sai che tante persone dicono: cosa regalo a Natale? Regaliamo la sciarpetta di cardigan, un paio di guanti, pam, ti sparano sul cucciolo che poi ti viene fuori dalla scatola di Che cucciolo, allora, poi dopo ha le sue esigenze, poverino, piange, fa la pipì, esattamente, fa la pupù. Allora, è giusto o non è giusto regalare cani a Natale? Questa è la domanda che noi ci poniamo in questo momento. È giusto o non è giusto? Rosita Celentano, cosa ne pensa? No, allora, non è giusto se lo fai con superficialità, senza renderti conto che ti devi assumere la responsabilità di un essere vivente, e non che poi quando ti stanchi come un pacco postale lo prendi e lo riporti al mittente, se non lo abbandoni addirittura. Ecco, brava. Quindi, e poi bisogna sapere che tipo di cane, che tipo di vita si fa, se ci sono dei bambini, che età hanno, che tipo di cane prendere, se ci sono bambini di che, insomma, anziani, piuttosto che sarebbe meglio andare a prenderli ai canili, ma... Allora, Angelo ha stipulato questa cosa che io vi giuro, non perché è il mio fidanzato, se volete per un attimo lo lascio, quindi da fidanzato e vi dico, per i prossimi 5 minuti non stiamo insieme. Ha stipulato questa dichiarazione di fedeltà al cane, che io la trovo geniale, perché la fedeltà che il cane ha verso noi esseri umani è commovente, no? Allora, la trovate sui nostri social. Tra l'altro la grafica è perfettamente impostata da un bravissimo grafico, si chiama Luca Rondoni, no? Si è formato nella mia scuola e insieme ad altri educatori cinofili in formazione abbiamo insieme fatto un brainstorming per tirar fuori questa dichiarazione di fedeltà al cane. Adesso leggiamo, ve la sveliamo. Tenete presente che nelle prossime puntate andremo a sviscerare punto per punto, così che siate sempre più informati su questo, ma per ora vi leggiamo i punti uno dietro l'altro. Allora, vabbè, io sottoscritto, si mette il nome, mi impegno solennemente a riconoscere la sua diversità come una ricchezza, cioè il fatto che il cane sia diverso non è un limite, anzi può essere un'opportunità. Assumere la responsabilità per tutta la durata della sua vita. Questa è la cosa che a volte si dimentica, no? Sai che uno, per esempio, si lascia col fidanzato e dice: adesso il cane, vabbè, portiamolo in canile. No, tu ti assumi questa responsabilità per tutto il resto della vita. Accettare tutti i cambiamenti che il suo arrivo porterà. Certo, perché il cane comporta dei cambiamenti. Tra l'altro, proprio per questo, in genere, le persone che adottano il cane diventano genitori molto bravi. Condividere con lui la mia casa. Esatto, non tenere il cane in giardino. Poi punto 5, considerarlo parte della famiglia, cioè non ovviamente una cosa da utilizzare o qualcosa che è lì l'ultima ruota del carro, ma è un membro della famiglia vero e proprio. Conoscerlo profondamente per soddisfare i suoi bisogni. Fondamentale, cioè se uno non conosce quali sono i bisogni del cane, ne stiamo parlando, no, in queste puntate, quali sono i bisogni del cane, è molto importante saperlo per fargli fare una vita felice senza che voi abbiate anche problemi di comportamento. Imparare il suo linguaggio per comunicare al meglio. Esatto, perché se tu non sai che il linguaggio del cane, no? Il cane non è che parla, però è fatto di espressioni, posture, gesti, e quindi se tu non sai questa cosa qua, non riesce a comunicare bene, quindi non riesce ad avere un buon rapporto. Riconoscere le migliori cure e attenzioni per il suo benessere. Questo mi sembra scontato. Punto 9, non essere per lui un capo ma una figura su cui contare, una base sicura. Questa cosa sempre del capobranco, ne riparleremo nelle prossime puntate. E 10, essere consapevole che tutta la sua vita è nelle mie mani. Esattamente. Allora, in fondo c'è scritto: sono cosciente che questo impegno non potrà essere mai revocato. Nel caso in cui la sua vita con me risulti essere inadeguata, mi impegnerò in in prima persona cercare la soluzione per renderla migliore. In fede, firma. Bene, benissimo, questa qui la trovo una cosa fantastica. Allora scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Adesso io cercherò di mettere anche sui miei social questa dichiarazione di fedeltà al cane, che vi giuro la trovo veramente un bello scambio, no? Una riconoscenza anche alla fedeltà che i cani hanno con noi, anche se a volte li maltrattiamo, non gli diamo attenzione, però sono sempre pronti ad accoglierci scodinzolando, ci vogliono bene. E quindi, come si dice, adesso un attimo di pausa e continuiamo la nostra trasmissione fantastica. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva animale. Eccoci qua, sempre in diretta, oddio in diretta, insomma sempre pronti. Sempre pronti. Allora, parliamo di pet therapy, no? Yes. Si parla sempre dei benefici che i cani apportano nella nostra vita. E magari adesso chiariamo anche il punto che siamo anche noi a doverli portare, a portare nella loro, perché il cane non è uno strumento, ma è un alleato. Non è un gadget. Ne parliamo con Miriam Borra, che è psicologa, psicoterapeuta, educatore cinofilo ed è presidente dell'associazione WAM. Ciao Miriam. Ciao Miriam. Ciao, ciao Rosita, ciao Angelo. Allora, WAM sta per... UAM sta per umanimalmente. Come mai questa... Scusa, per cosa? Per umanimalmente. Ah, quindi sono le prime tre lettere. Pensavo che ogni lettera invece aveva una... Vabbè, Miriam, scusami, sì. io ho delle lentezze familiari. Sì. Cosa racchiude questa parola? Uomo, animale e due menti che entrano in relazione per portarsi un benessere reciproco. In relazione. Quindi, bello. Sì, in relazione. Quindi la tua associazione si occupa di pet therapy. Sì, allora... si occupa di benessere attraverso la relazione mediata con gli animali da compagnia. Ok, allora voi avete fatto una cosa singolare, che è la Cine Video Pet Therapy. Sì, sì, è una proposta nuova, assolutamente innovativa, che ci tenevo moltissimo a condividere con voi, perché è assolutamente qualcosa di un po' speciale, che integra quindi una disciplina come la cine videoterapy con la pet therapy. Ah, raccontaci un po', cioè, com'è la cine video pet therapy. Cine video pet therapy. Allora, diciamo che partiamo un po' dalla cine videoterapy, che è una disciplina che integra il cinema e i video nei percorsi di riabilitazione e di terapia psicologici. Quindi utilizziamo i film come lungometraggi o brevi frammenti di animazione, realizzazione di video, come mediazione artistica volte alla ricostruzione emozionale e alla stimolazione cognitiva e sensoriale. Quindi... Ah, bello! Ma ci sono stati... non so se è già avviata una ricerca proprio con gli animali, o se avete già dei dati da fornirci. Cioè, che cosa è successo con questa roba qua? Diciamo che siamo partiti da questa sperimentazione di cine videoterapy, quindi senza gli animali, solo con gli spezzoni di film. È stato scritto un libro proprio da parte di una psicologa e psicoterapeuta che lavora all'interno di una struttura in cui operiamo, che si trova a Pianezza, in provincia di Torino. La struttura si chiama Villa Papa Giovanni XXIII ed è una struttura di neuroriabilitazione. È stato visto come la proposta dei cartoons nelle demenze portasse a degli effetti veramente benefici dal punto di vista di stimolazione cognitiva, emotiva, in queste persone che hanno una compromissione molto importante. E allora ci siamo detti, ma perché no? Perché non integriamo anche la presenza dell'animale per andare a creare un rinforzo maggiore dal punto di vista degli altri sensi, quindi della vista e del tatto, un potenziamento attraverso una realtà immediata che arriva dalla presenza del cane diretto nell'attività. Brava! Figo! Sì, figo in radio magari non si dice. Ma però. Come? Ma diciamo parolacce dalla mattina alla sera. Dici parolacce, parla per te. Ma come parla per te? Amore, no, questo, ti tengo questo d'occhio. Il nostro solito teatrino che tutti quanti conosciamo. Allora, siamo Sandra e Raimondo. Hai capito cosa ha detto? Certo, ho capito. Vuoi che riassuma tutto da capo? Sentiamo, che cosa hai detto? No, non abbiamo tempo, perché sennò... Miriam, noi facciamo un po' di teatrino da Sandra e Raimondo. Ma giustamente, se piacciono, no, non ci... è giusto. Buon umore. Ma certo. Ci divertiamo. Ma sì, infatti. Senti, mi sembra che ci siano altre cose, no? Che voi, cioè, non è soltanto la cine video pet therapy che voi fate, no? Sì. Raccontaci curiamo, un po'. Curiamo tanti altri progetti. I progetti sono tanti, sono importanti. Un progetto che, diciamo, sottolineo perché è stato svolto recentemente, che andrà avanti con bambini oncologici fuori terapia, insieme a LUGI, quindi l'Unione Genitori Italiani, svolto nella sezione di Ivrea, e a breve lo svolgeremo a Casa UGI a Torino. Quindi è un percorso in cui lavoriamo proprio sugli aspetti emotivi legati alla rabbia, alla depressione, che comunque sono sentimenti che emergono alla fine di un percorso di riabilitazione che ha visto anche magari periodi di prolungata ospedalizzazione dei ragazzi e dei bambini. Bellissimo. Bene, ma... Senti, ma che cosa ne pensi di quelli che dicono, che ne so, il medico che dice alla famiglia, senta, ma suo figlio ha questi problemi, adottate un cane, no? Perché, perché molti ci... Dicevo prima, no, della pet therapy, come sono percorsi dove la presenza del cane è mediata. Mediata che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque all'interno di ogni attività di pet therapy è prevista la compresenza di due operatori. Proprio c'è un documento nazionale che parla di questo, dell'importanza di avere una figura che è preparata per gestire l'attività con l'utente, quindi sarà una figura dell'area sanitaria, e in compresenza un collega che porta la sua relazione speciale costruita insieme al suo animale al servizio del terapeuta. Entrambi quindi sono formati in pet therapy, però una relazione che viene mediata in funzione degli obiettivi di quello che serve in quel momento nell'attività, viene chiesto al coadiutore del cane di fare determinati far svolgere determinati esercizi, di avvicinare o allontanare l'animale. Quello che succede talvolta anche nel mio lavoro è che mi chiamano disperati dicendo: ma pensi che noi abbiamo questo problema, che ne so, con nostro figlio, con la nonna, eccetera, ci hanno detto di adottare il cane perché così potesse aiutare, però in realtà l'adozione di questo cane, che magari è anche un cane agitato, problematico, non seguito e via dicendo, complica le cose in una situazione che già di per sé è compromessa, no? A livello familiare. Assolutamente, condivido pienamente. Un conto è all'interno di una famiglia dove magari c'è già una situazione faticosa e pesante da gestire, una proposta di pet therapy, quindi un'attività mirata che viene svolta in un luogo specifico, quindi che va un po' a alleggerire la famiglia e a stimolare magari il bambino, la persona in maniera positiva. Un conto è farsi carico di un animale che per star bene ha bisogno di avere soddisfatti dei bisogni, se no l'animale ovviamente esprime malessere e stiamo tutti male, l'animale sta male, siamo male anche noi. Quindi, insomma, consiglio generale: rivolgetevi agli esperti in pet therapy, che oggi in Italia, insomma, si sono un po' più conosciuti, no, come figura rispetto a qualche anno fa. Grazie Miriam. Sì, diciamo, un conto è la pet therapy, un conto è il proprio animale da compagnia. Sono proprio due cose diverse. Grazie mille Miriam Borra. Se avete maggiori informazioni, cercate su Google UAM Umanimalmente. Grazie mille. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao. Ma io lo so che ci sarà gente che dice: sì, ok, i cani ci sono anche utili, ci danno benefici, eccetera, eccetera. Però che dire di quei cani che invece ci mordono le chiappe? Ma mica tutti i cani mordono a prescindere. E poi tu mi insegni: il cane, se fa qualcosa, è perché è successo qualcosa prima? No, non necessariamente. Ecco, questo quindi è uno dei miti da sfatare. Questa roba qua che è sempre colpa del proprietario. Scusami, no, che è sempre colpa del proprietario. Ma il cane, secondo te, prende e morde così? Ci avrà una motivazione per difendersi, per paura? Sicuramente ha le sue motivazioni. Dal suo punto di vista, le sue motivazioni. Potrebbe essere difesa del territorio, potrebbe essere competizione se vado ad aggredire un altro cane. Quindi c'è sempre qualcosa prima che scatena in lui un morso. Sì, dal suo punto di vista lui ha una certa visione. Però il punto, ci sono diverse cose di cui parlare da questo punto di vista. Sicuramente io voglio sfatare questa roba qua, mi raccomando, chi ascolta, non è sempre colpa del proprietario. Cioè, io voglio anche dirlo per quei proprietari che a volte si rivolgono a noi istruttori e dicono: sai, ho avuto, che so, 3-4 cani nella mia vita, questo qui è completamente diverso, non so dove ho sbagliato. Ed effettivamente magari lui non ha sbagliato niente. Però tu mi dici che si può sempre risolvere questo problema qui? No, non sempre. Ah no? Scusami, aspetta, volevo dire solo questo. A parte se per caso non ci siano problemi neurologici. Sì, che poi quello è un altro paio di maniche. Allora, il problema lo puoi gestire, è più facile quando hai collaborazione da parte di un proprietario, quando si mette in gioco, aumenta le sue capacità, eccetera. Si tratta sempre di probabilità, cioè come faccio ad abbassare le probabilità che questo cane morda ancora. Ma quello su cui io volevo, insomma, l'argomento è vastissimo, quello su cui invece volevo portare la vostra attenzione, cari miei ascoltatori, è premessa: io adoro le razze di tipo Bull, Pitbull, che sono quelle più... American Staffordshire, i cani da presa, il Rottweiler. Tutti i cani che hanno un bel carattere forte. Hanno un bel carattere, a me piacciono molto, li adoro. Io quando ci lavoro mi diverto un casino. Però bisogna anche prendere coscienza di una cosa: c'è una differenza tra una razza e l'altra, non soltanto in termini di colore del pelo, certo, taglia, di grandezza, di cose, esatto, ma anche di carattere. Le razze portano con sé dietro tendenze comportamentali, per cui il carattere di un Pitbull, di un Rottweiler, di un Doberman sarà necessariamente diverso rispetto a quello di un Barboncino, di un Bobtail e via dicendo. E quindi tu dici, nascendo già ognuno con un proprio bagaglio genetico che lo porta a essere più docile, più aggressivo, più pauroso, più mite, esatto, chi prende... Quando uno decide di prendere un cane deve farlo con cognizione, perché sì, deve sapere che a quel punto deve, a seconda proprio di questa predisposizione, sapere come si deve, come deve crescerlo. Infatti fra i cani più lasciati in canile ci sono proprio i pitbull, per esempio. Allora mi faccio riferimento a un articolo apparso sul Corriere di Milano, Corriere.it, che fa riferimento alle morsicature. Per esempio, ci sono i cani iscritti all'anagrafe metropolitana, sono 318.000 e qualcosa. I cani morsicatori, esatto, i cani morsicatori da gennaio ad ottobre 2016 sono 801. Pensate, 801, quindi quando voi per esempio vedete nei telegiornali le ondate di cani che mordono, queste notizie, uno dice ma che c'è, tutti i cani sono impazziti in quel momento? No, è che i media decidono in quel periodo di occuparsi di quel genere di notizie, perché uno le chiama l'altro, perché di morse di cattura ce ne sono migliaia sempre, ogni anno. Però questo soltanto per quanto riguarda Milano, eh? Sì, ma qui leggo una cosa interessante, che dal 2010 a Milano sono emesse 50 ordinanze per cani pericolosi, quindi patentino obbligatorio. C'è questa proposta, no? C'è questa proposta, quindi va approfondita. La cosa però della quale stiamo parlando è questa: tra queste razze qua c'è una percentuale differente in termini di morso. Per esempio, di queste 801 morsicature, risulta che il pitbull, nessuna razza prevalente, quindi meticci, e American Staffordshire Terrier, che ricordo sono cani molto vicini al pitbull, sono i cani che hanno morso di più rispetto agli altri. Se io vedo Rottweiler, Pastore Tedesco, Doberman, Bracco Italiano, eccetera, sono una c'è un parametro soltanto, quindi sono molte meno. Quindi attenzione, quando decidete di prendere in considerazione l'adozione di una di queste razze, dovete essere proprietari che hanno capacità superiore rispetto ad altri. Io purtroppo vedo spesso i pitbull con dei ragazzi giovani, che mi dà più l'idea che lo prendano proprio perché fa sentire forte, quindi devono essere consci del cane che stanno prendendo. E allora scriveteci che cosa ne pensate di questa cosa che noi abbiamo detto a Chiedimi se sono felice @radio24.it, in modo che sia un argomento che possiamo poi sviluppare nelle prossime settimane. A fra poco. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Eccoci qui sempre presenti noi. Adesso abbiamo un ospite interessante. Abbiamo un ospite interessante che tu hai incontrato anche di persona. Assolutamente sì. Allora, conoscerete anche voi questa cosa, perché se siete appassionati di animali seguirete certamente l'Arca di Noè al TG5, questo spazio dedicato ai nostri amici animali. E abbiamo con noi la persona che ha realizzato questa cosa, che è Maria Luisa Cocozza. Ciao Maria Luisa. Ciao a tutti. Maria Luisa. Buongiorno. Ciao. Eccola qui, giornalista del TG5. Allora, perché l'abbiamo chiamata Maria Luisa? Per due motivi. Perché? Uno è che è appena uscito il suo libro, che si chiama Un cane in famiglia, edito da Sperling e Kupfer. L'altro che ha fatto un recente viaggio in Africa, di cui ci parlerà tra poco. Devo dire che la Sperling e Kupfer è molto appassionata di tutto ciò che tratta degli animali o dei cani. Sì, eh? Sì, sono molto sensibili. Perché sai, ma Maria Luisa, che anche il libro di Angelo, Un cuore felice, che parla del gioco, è uscito con la Sperling e Kupfer. Sono bravi. Sì, ma infatti, guarda, però ti posso dire, ultimamente c'è stato un incremento fortissimo dell'editoria sugli argomenti. Sugli animali. Sì, sugli animali, ma proprio un boom. Allora, è vero che comunque Sterling e Kupfer fin da sono molto un po' più prima, attenti. Sì, dall'inizio. Infatti. Sì. Senti, allora raccontaci un po' di questo libro, com'è nata l'idea, come ti è venuta? No, l'idea era quella di offrire uno strumento a chi decide di adottare in famiglia un cane, uno strumento per fare tutte le scelte fondamentali a partire dalla razza o non razza da prendere, ecco, perché magari con un atto di generosità, di amore, di passione si fa un gesto un po' magari avventato senza aver ben considerato tutte le prospettive e poi ci si ritrova magari a disagio nel corso della vita, ecco, vedi. Sì, comune. Che è un po' quello che stiamo dicendo e vogliamo ricordare, visto che ci si avvicina il Natale, di non usare la leggerezza di regalare un cane per Natale, ecco, no, come se fosse una scatola di Lego piuttosto che esatto. Poi ci si fa scegliere a quindi, volte. Quindi possiamo dire che questo libro, Un cane in famiglia, è un modo per realizzare la famosa adozione consapevole. Esatto. Cioè quella che esattamente, proprio così. E siccome poi bisogna considerare che questa vita in comune durerà per anni o decenni addirittura, quindi bisogna veramente farlo con molta attenzione. Con molta cautela. Certo. E anche serenità, sia ben chiaro, non è che bisogna chissà quali problemi porsi. Però sapere, no, ma maggior ragione, cioè la serenità di questa relazione aumenta proprio col prenderne maggiormente coscienza. Esatto. Quindi questo lavoro che fai in anticipo prima di fare l'adozione è proprio quello che ti renderà la vita lieta. Ma se ci pensi, esatto, poi nella vita, quando devi vivere relazioni o fare dei passi, anche perché non so, imparare ad andare in macchina, uno prima deve sapere qual è il modo più adeguato. Figurati quando hai fra le mani la vita di un altro essere vivente, capito? È una bella ma responsabilità. E poi non bisogna avere paura o timore o pudore a chiedere consiglio, certo, aiuto a chi è più esperto, perché oggi insomma ci sono tante persone che possono aiutare anche in alcuni momenti semplicemente della vita di relazione, che possono essere più problematici, oppure ad andare avanti. Oppure non ci si deve far convincere, perché purtroppo c'è, è capitato di avere coppie dove uno dei due coniugi voleva a tutti i costi un cane e l'altro no. A un certo punto ci si fa convincere, poi magari è proprio quello che non lo voleva che si doveva preoccupare di più, di seguire l'animale, e si trova ad avere un disagio, a sentirsi anche un po' frustrato, perché magari non lo riporterebbe indietro perché oramai gli dispiace, sì, però lo vive male. Cioè, bisogna veramente esserne consapevoli. Insomma, io veramente l'ho affrontato più dal punto di vista della mamma, perché spesso sono sì, i bambini a chiedere il cane. Sì. Ma noi per questo Angelo ha fatto una cosa fantastica. Sì, si chiama la dichiarazione di fedeltà al cane, quindi l'ho elaborata insieme ad altri colleghi. Sono 10 punti che uno promette, praticamente è proprio una specie di, come posso dire, di carta che uno firma, di contratto che fa col proprio cane. E ci sono 10 punti, quindi perfettamente in linea. Ah, stiamo parlando bello in questi giorni qua in radio. Il tuo libro è praticamente da affiancare, esatto, a questa dichiarazione di fedeltà al cane. Te la spedisco. A saperlo così prima si metteva dentro. Bisognerebbe, sì, è vero. Senti, è vero. Maria Luisa, però io sono molto, molto, molto curioso del tuo viaggio in Africa. Sì, guarda, è un viaggio emozionante. Io non pensavo, sinceramente, di poter essere coinvolta in questo modo, perché gli elefanti, a parte questi che ho visto io, sono piccolissimi, proprio dei cucciolotti. Amore, che animale, sì, meraviglioso, teneri, che è l'elefante. Poi orfani, poi l'elefante è simpatico, intelligente, vivace, è proprio, non lo no, so, però raccontaci, ecco, raccontaci bene, perché non sanno, allora, i nostri ascoltatori magari, sì, non ora, sì, hai ragione, mi sono subito fatta prendere dall'aspetto emotivo. Allora, io sono andata con un'organizzazione italiana che si chiama Pengo Life Project, che è, diciamo così, la filiale italiana di un di un'organizzazione internazionale che sta in Kenya e si chiama David Sheldrick Found Trust. Praticamente questi che fanno? Prendono, reperiscono ovunque dove ci sono le stragi di elefanti, che come sapete bracconaggio per l'avorio fa cose tremende. Va a prendere questi elefantini che sono rimasti orfani perché gli hanno ucciso la madre. L'elefante è dipendente dalla madre per anni e anni e sarebbe destinato a sicura morte, e poi comunque traumatizzato, spesso ferito. Perché questi sparano con i Kalashnikov, mica scherzano. E quindi li vanno a prendere con gli aerei, i camion, eccetera, eccetera, li portano in questa nursery che io ho visitato, se sono molto piccoli, li accudiscono, gli danno il latte, dormono con loro, gli fanno da mamma praticamente, i keeper di questo centro, tutto e per tutto, 24 ore su 24. Piano piano li rimettono in sesto. Quando sono un po' più grandicelli, a 3 anni, li trasferiscono in un secondo centro dove hanno un po' più di autonomia, libertà di movimento, cominciano a prendersi il cibo da soli, eccetera, eccetera. A 6 anni c'è un terzo centro, ancora più grande, ancora più selvaggio, diciamo così, più vicino a quello che poi sarà la natura dove loro dovranno vivere. Insomma, per farlo a breve, per 10 anni si occupano. Beh, ma sono favolosi, anche perché sai, l'elefante vive tanto quanto noi, può vivere fino a 70-80 anni, per quello è così lento, molto avanti, ed hanno una gestazione di quasi 24 mesi e difficilmente nascono 2 cuccioli per volta, proprio perché sono, cioè, perché hanno molto accudimento, ecco questo. Quindi pensa, quando viene a mancare la madre è veramente una tragedia. Senti, ma che cosa che ti ha... Dice delle cose che ti hanno colpito particolarmente, proprio la tua esperienza personale. La cosa, ciò in assoluto, che più mi ha colpito, loro hanno questa proboscide fantastica, poi quando sono piccoli ancora non la gestiscono tanto bene. Sì, è vero. Per cui te la ritrovi un po' da... è il loro modo di contattarti, no? Ti mettono questa proboscide addosso, eccetera. Spiccicano in faccia. Sì, in faccia. Allora mi hanno detto subito, soffiaci dentro. Ai, mi sono soffiato. Sì, ci ho soffiato e vedevi questo elefantino proprio contento. Ma e dopo un po' mi ha fatto anche lui il suo soffio e ti dico, una cosa profumata, perché è un erbivoro, esatto, infatti l'ho detto, è perché è erbivoro. No, guarda, una sensazione meravigliosa. Ma poi che meraviglia. Cercano sempre il contatto, poi ti spintonano, vogliono giocare. Sì, sono un animale. Guarda, io li ho scoperti anni fa, sono degli animali strepitosi, veramente commoventi, grandi e grossi, ma proprio con un animo grandissimo. Sì. Hanno questi occhi umani. Mi hanno buttato per aria un paio di volte, comunque. Immagino. Ma perché secondo me non sono tanto consci della... Fa parte della loro forza. Dai. Hanno poi quest'occhio umanissimo, con le ciglia lunghe. Ma infatti proprio non si capisce come gli si può far del male, guarda, è una cosa incredibile. È terribile, tra l'altro stanno scomparendo, non so se tu hai, se ti hanno raccontato qualcosa. Sì, veramente stanno scomparendo. Per poi fare che cosa? Per prendere l'avorio dalle zanne, ma è una cosa allucinante, ma chi, non lo vogliamo questo avorio, veramente, bisogna bruciarlo, toglierlo, buttarlo. Ma magari fossero tutti come te che non lo vogliono, invece purtroppo... Però guarda, culturalmente è già successo questo con le pellicce, se ci pensi, nessuno più oggi mette una pelliccia, no? Ma... fino a 20 anni fa era invece un... Era più facile, però c'è ancora, sai, poi noi stiamo parlando dell'Italia, ma chissà nel resto del mondo, no, certo, se hanno quella consapevolezza. In Oriente i mercati Vedi. Senti, Maria Luisa, ma se una persona che ci sta ascoltando come me avesse desiderio di andare da questi elefantini ad aiutare, allora, c'è un modo? Aspetta, ti devo dire la cosa più importante che non ho detto, che questo centro si finanzia tutto con fondi privati, non ha nessun sostegno dallo Stato, anzi è lui che fornisce guardie allo Stato per andare a fare il controllo del territorio antibracconaggio. Dov'è che è? Dov'è? In Kenya. In Kenya, ok. Sì. Allora, quindi loro si sostengono soltanto con i fondi privati, che sono fatti in due modi, costituiti in due modi, o adottando un elefantino a distanza, quindi tu dai dei soldi e poi una volta all'anno anno, quando puoi, una volta ogni due anni, vai lì e te lo guardi, gli porti la copertina come ha fatto una ragazza che era giù con noi, uh-huh. oppure andando lì, da turista diciamo, uh-huh. paghi un biglietto per entrare in questo centro, un biglietto abbastanza diciamo elevato, uh-huh. ingresso, e vedi tutta la scena del bagno nella pozza che stanno loro, che è questo incontro bellissimo, una specie di piazza, no? dove uh-huh. loro giocano, si bagnano, si tuffano, si infangano, si divertono. Meraviglioso. Sì, e poi e la sera rientro dal bosco con quando rientrano in stalla, questi turisti possono andare lì a vedere come quando si addormentano, insomma, tutta l'ultima parte della giornata. E questi sono i due modi per... sono stati bravi. Ci ripeti per favore il nome di questa associazione italiana? Sì, Pengo. Quindi Palermo. C'era il nome, sembra strano, ma era Empoli. Il nome di un guardacaccia che è morto, e quindi il nome suo è stato fatto questo. Quindi Palermo, Empoli, Napoli, Genova Otranto. Pengo, sì. Quindi cerchiamo su Google Pengo e possiamo dare la nostra donazione, oppure chiedere loro come raggiungerli e andare lì sul posto. Bellissimo, sì, meraviglioso. Sì. Quanto tempo sei stata lì? Sei giorni, quindi avete fatto filmati per il TG5, sì. Mi sembra questa cosa. Sì, no? TG5, Arca di Noè, speciale TG5, faremo un sacco di cose perché al mio direttore piace moltissimo. Bellissimo, quindi se noi vogliamo rivedere i filmati dell'Arca di Noè andiamo sul sito, no? Sì, sull'applicazione. Se vi scaricate l'applicazione del TG5 c'è anche l'Arca di Noè, oppure sul sito chiaramente c'è tutto. Benissimo, grazie, perfetto. Guarda, bella esperienza. Grazie a voi. Grazie infinite a voi. Maria Luisa Cocozza. Buon lavoro. Ci rivediamo in TV. Ciao. E noi invece ci risentiamo fra poco. Io voglio adottare un elefantino. Bravo, sì, teniamocelo in casa, dai. No, in casa no. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Siamo tornati assieme? Siamo tornati assieme, del resto bisogna anche dire, secondo un articolo... Ma tu prima non avevi detto pubblicamente che mi avevi lasciato, l'hai detto quando c'era la pausa. L'importante è che lo sapessi tu. Prima ci eravamo lasciati per qualche minuto, come tu lasci me ogni tanto quando sei... Poi ci siamo rimessi assieme. Una volta solo io ti ho lasciato. Adesso siamo tornati assieme. Ma era per difenderti, amore. Dai, facciamo girare questo vaso di creta. Pensavo dicessi facciamo girare le palle. Quello sempre, soprattutto tu ci riesci. Allora, perché parliamo d'amore? Perché parliamo cazzate? D'amore? Non è soltanto perché ci divertiamo a fare questo teatrino, ma è uscito un articolo su The Bark, che è una rivista molto autorevole riguardante i nostri amici animali. Che ti piace parecchio. The Bark? No, questo articolo. A parte The Bark, è un gran bel giornale. No, questo articolo io prendo atto, come tutti devono prendere atto. Praticamente pare che i cani rendono più attraenti. Ecco perché te ne vai al parco sempre da solo, sì, un'oretta o due con Jean-Pierre. Certo, poi tu c'è pure il cane disabile, quindi pure, c'è ancora questa cosa, poco. Povero cane, lo ferma chiunque, lo ferma, ridi. Appunto, chiunque, cioè uomini, donne. No, uomini mai, donne di tutte le età. Cioè si vede che non prima, viene al parco e con terza me, età. No. Allora, parliamo di questo articolo. Cosa dice questo articolo? No, degli scienziati, ci sono più ricerche scientifiche da questo punto di vista, degli scienziati hanno ipotizzato che chi ha un cane con sé diventasse più attraente, cioè richiamasse maggiormente la fiducia degli altri, insomma queste cose qua. Allora, per dica esempio, sì, rimorchia di più. Beh, esattamente. Per esempio, in uno degli esperimenti un uomo ha chiesto a 240 donne il suo numero di telefono, il loro numero di telefono. Tu difatti hai dato il tuo numero di telefono al parco. Dai, smettila, che di il nostro ascoltatore non voglia partecipare a questo teatrino. Vogliono invece che fasullo, tendenzioso e malizioso. Vogliono sentire. Mi ascolta. Sì, ti ascolto. Allora, ascolto. Che cosa è successo? Quindi un uomo va da 240 donne a chiedere il numero di telefono. A 120 di esse glielo chiede senza essere col cane, alle altre 120 momenti glielo chiede invece facendosi accompagnare da un cane. E indovina che cosa è successo? Che quando lo vedono col cane sembra più affidabile, quindi tutti gli danno il numero di telefono. Esattamente, cioè praticamente quando tu hai un cane, tre volte tanto hai più successo, hai più probabilità di ricevere il numero di telefono. Grazie, da domani, signora. Grazie signora, da domani ti sequestro il cellulare. Ecco, ma che gente, cioè, io vado là e gli do comunque il mio numero di telefono. Si evince da queste trasmissioni che io sono una santa donna pia, tranquilla, che sembra invece quella con la faccia da meridionale, sai, la furbetta, e lui con l'occhietto azzurro. Guarda, in ordine, vuoi l'ultima volta che ti ricordo che hai dato un numero di telefono tuo a una donna che allora, ti ha incontrato al parco? Allora, 11 donne su 120 hanno dato il numero di telefono senza che ci fosse il cane, 34 su 120, quindi il 23,3% invece l'hanno fatto con il cane, quindi una percentuale tre volte più alta. Hanno anche visto, i miei cari maschietti in ascolto, che il colore del cane e anche l'età del cane influenza maggiormente questa scelta. Certo, diciamolo, così adesso vanno a prendere proprio il cane per rimorchiare, che influenza. Allora, praticamente, se voi volete rimorchiare di più, dovete avere maggiormente un cucciolo oppure un cane di colore chiaro. Per esempio, che queste due poi, queste due avete parametri. Avete rimorchiato, tornate a casa Peter dalla regia Peter. È molto vergognati molto Peter. Allora, che cosa non so, succede? Ma ti sei appena sposato anche. Rispetto, no, tra l'altro, parentesi un po' triste, adesso facciamo un pochino i seri. Purtroppo i cani che vengono adottati poco in canile e risaputo sono i cani scuri, dal mantello nero. Mi raccomando, non fatevi fregare da questo istinto, perché non corrisponde invece a quello che i cani di mantello nero possono fare. Quindi quando andate in canile chiedete maggiormente dei cani col mantello nero, perché sono quelli che più facilmente rimangono in canile per motivi X, quando invece non lo meriterebbero. Senti, comunque tu tornando all'articolo, non è che solo voi uomini, anche le donne che vanno in giro col cane rimorchiano, perché grazie a Dio qui invece c'è la par condicio. No, pare invece da questo articolo che invece... Ma non è vero. No, assolutamente sì. Per esempio, un altro studio ha esaminato 1210 persone su Match.com che possedevano animali domestici. Pare innanzitutto che il cane funzioni più del gatto. E c'è una differenza... Perché col gatto mica vai al parco. C'è una differenza sostanziale tra quando è la donna che deve scegliere il proprio compagno, quindi reputa più affidabile l'uomo col cane. L'uomo col cane gli viene di avere maggiormente fiducia rispetto all'uomo che non ha. Tra l'altro, alcuni di questi che hanno partecipato a questa cosa qua hanno addirittura ammesso di aver favorito, di aver esagerato con questa cosa del cane, proprio perché speravano che questo intenerisse. Quindi la donna col cane non acchiappa. La donna col cane ha una misura minore di attrattiva per gli uomini. Si vede evidentemente che gli uomini e la donna col cane hanno paura, perché la donna si sente già appagata col cane e dell'uomo ci può fare veramente un fischio. Allora, quindi voglio sottolineare questa cosa: non è che per le donne non c'è differenza. Anche le donne sono più attraenti se appaiono con il cane, però in misura minore. Io cioè con per due gli uomini, cani appaio doppiamente anche perché attraente. Voglio dire, degli uomini non c'è da fidarsi. Lui sta parlando, ma io parlo per conto mio e lui per conto suo. Questo fa capire tante cose. Come siamo in casa. Senti, allora, ecco, un'altra cosa è che la nostra ossitocina cambia con un cane a fianco, quindi questo ci rende più attraenti, anche perché l'ossitocina comunque è uno di quegli ormoni che causa stati che si riversano sugli altri come virus. Detto questo, bello questo articolo, adesso dobbiamo diamo subito la nostra ricetta, Mara, ma prima voglio dire una cosa. Angelo, da domani non vai più ai parchi da solo, solo in passeggiata solitaria. Ma io sarei molto felice e di ora questa cosa qua. Piatti e ciotole. Ma parliamo di cibo. Esatto, Mara. Buongiorno. Tra l'altro, buongiorno. Cibo ed Eros sono un'altra accoppiata fantastica. Oggi è tutto successo il nostro Vaira, Mara. Devo ammettere, da uomo, questo quando si vuole parlare di questa cosa, che una donna che cucina, che sa fare bei piatti, prende di più. Certo, prende anche se te li spalma addosso. Noi abbiamo questa arma. Esatto. Cosa, Mara? Noi abbiamo questa arma, voi avete il cane di colore bianco e noi abbiamo questa arma. Sì, anche di tirargli dietro le pentole abbiamo l'arma. Con dentro tutta la torta l'arma fatta. Senti, per caso hai fatto che piatto ci hai preparato per oggi? Allora, oggi preparo per tutta la famiglia, animali compresi, il polpettone di tofu. Wow! Allora, vi occorrono 200 grammi di tofu affumicato, 100 grammi di tofu al naturale, 200 grammi di pangrattato, 200 grammi di lievito in scaglie, 4 foglie di verza, 3 carote, un cucchiaino di salsa di soia, un cucchiaino di olio extravergine di oliva, o anche due, insomma, poi vedete un po' voi quanto volete condire. Dovete tritare finemente il tofu, aggiungere il cucchiaino di salsa di soia e l'olio. Aggiungete il pangrattato, il lievito in scaglie, le carote e la verza tagliata finemente. amalgamate bene fino a ottenere un composto che deve rimanere morbido, formate una specie di salsicciotto, che salsicciotto non è, avvolgetelo nella carta da forno bagnata e strizzata e infornate a 180 gradi per 30 minuti. Quando eventualmente potete aprire la carta spagnola alla fine dei 30 minuti e dorare per ulteriori 10 minuti. È un polpettone saporitissimo che potete servire nei piatti umani con un contorno di verdure di stagione e in questo periodo ce n'è veramente di ottime. Per invece la nostra ciotola dei nostri animali domestici potete spezzettare il polpettone e mescolarlo o a del riso soffiato o a un altro cereale che avete in casa o anche dei fiocchi. Fantastico. Sì, allora, vi consiglio di provarla perché è veramente grazie buona, mille Mara di Noia. Purtroppo questa volta dobbiamo già chiudere. Avete maggiori informazioni cercando su Google Mara di Noia o Vega Chef e potete andare a riascoltarvi queste ricette sui nostri podcast. Ci sentiamo, ci rivediamo qui domenica prossima. Chiedimi se sono felice con Angelo Vaira e Rosita Celentano. Ciao Mara, a presto.